io. Bene, possiamo cominciare l'incontro di stasera. Benvenuti a tutti voi, vi ringraziamo per essere presenti stasera in questa giornata da lupi della pianura padana, tipica giornata autunnale della pianura padana. Oggi facciamo il secondo incontro di quello che abbiamo chiamato il ciclo lavoro oltre il capitalismo. È un ciclo che è fatto di incontri di dibattito politico, di teoria come stasera e di presentazioni dei libri. È un ciclo ibrido perché la nostra intenzione è quella di riprendere a studiare, riprendere ad analizzare, riprendere a costruire una teoria politica rispetto allo scontro atavico e perenne tra capitale e lavoro, tra capitalismo e lavoratori, uno scontro che abbiamo bisogno in questa fase di riattualizzare, o più che altro abbiamo bisogno in questa fase di farlo evolvere, perché noi non abbiamo bisogno di una nuova teoria, di inventarci qualcosa di nuovo, noi abbiamo bisogno di far evolvere ciò che si è mosso dagli anni passati, che arrivi nel presente e che guardi anche al futuro. Infatti questo ciclo parte oggi, la parte di dibattito del ciclo, perché la parte di presentazione dei libri abbiamo cominciato 2 settimane fa a Casabetto con la presentazione del libro per un Atlante operaio. E oggi invece partiamo con la parte un po' più dibattimentale. Una parte dibattimentale che ha come titolo Gli operai votano a destra, destrutturare la narrazione per ricostruire la coscienza. Abbiamo fatto questo ciclo, abbiamo costruito questo ciclo che conta di 2 parti. Una, quest'autunno, abbiamo avuto l'incontro a Casabettola, abbiamo l'incontro di stasera, di cui ho appena detto il titolo, e poi abbiamo l'incontro sabato alla Gargotta del Popol Just, che è una presentazione di un libro sul lavoro del cameriere. Ristorai, che è il lavoro del cameriere, lo faremo alla Gargotta del Popol Just. L'abbiamo pensato per continuare a far evolvere la discussione attorno al rapporto, come dicevo prima, del capitale lavoro, per 3 importanti motivi. Uno è perché siamo in una fase di cambiamento sia della società e quindi anche del mondo del lavoro, no? In cui l'avvento dell'intelligenza artificiale potrebbe, non usiamo condizionale, potrebbe segnare il passo e agire uno sconvolgimento, no? Sia a livello di società, di rapporti sociali, anche di rapporti nel mondo del lavoro. Siamo in una fase in cui alcuni chiamano di fine della globalizzazione, quindi il ritorno ai dazi, il ritorno al protezionismo, alcuni si spingono a dire questa fine della globalizzazione, ma non è certamente una fine, non ci sono mai cesure storiche rispetto ai cicli, no, della vita, ai cicli sociali, ai cicli di capitale, non esistono mai queste cesure. Sicuramente c'è un passaggio storico in cui c'è una ridefinizione di grandi potenze e comunque c'è anche una ridefinizione sia dei cicli economici che anche dei rapporti economici rispetto a non solo alle grandi potenze ma anche al commercio globale, dicendo chiaramente che il commercio globale non finirà, cioè non siamo a un ritorno a, no, l'autarchia degli stati, l'autosufficienza, non esiste più l'autosufficienza, i 30 anni di neoliberismo che abbiamo appena che abbiamo attraversato da fine anni 90 a oggi comunque restano, hanno segnato e continueranno comunque a segnare. È un qualcosa di diverso questo ritorno ai dazi, questo ritorno al protezionismo, e che è ancora tutto da indagare perché è cominciato da poco fondamentalmente. I movimenti politici non sono movimenti che si danno in un anno, in 2 o 3, ma si danno in decine di anni i cambiamenti. E abbiamo anche, e soprattutto la cosa che sulla quale come organizzazioni di spazi sociali, di centri sociali, di movimenti, di compagni e compagne di base, abbiamo anche la necessità di rompere la dinamica per cui la lettura geopolitica degli accadimenti, la lettura geopolitica dei rapporti sociali, la lettura geopolitica di tutto ciò che succede nel mondo ha preso sopravvento rispetto a una lettura di parte, a una lettura di classe di tutto ciò che succede, di tutto ciò che ci succede, di tutto ciò che viviamo e dei processi che determinano i cambiamenti, no, nei quali siamo immersi e sui quali produciamo lotte, produciamo conflitto e produciamo mobilitazione sociale, tentiamo di produrre mobilitazione sociale. Abbiamo la necessità di rimettere al centro, almeno nella nostra fase teorica in questo momento, di ridefinizione, no, dei piani di lavoro che determinano anche le lotte politiche, quindi lo scambio che c'è tra teoria, prassi, tra prassi e teoria, di rimettere al centro la lettura di classe. Anche perché molti di voi, anzi quasi tutti voi, vedono, leggono, fanno attività e comunque vedono come anche molte realtà di compagni e compagni si sono completamente gettate sulla geopolitica perché dà più soddisfazione rispetto alla lettura di classe e alla dura questione di classe che attraversa, no, le nostre vite. No, perché lo dico anche perché qua a Reggio Emilia, per esempio, siamo un'organizzazione politica di compagni e compagni estremamente proletarizzata. Il 90-95% di noi lavora, fa lavori manuali e quindi subisce molto questo cambio, no? Anche nel rapporto che hai con gli altri compagni e compagni di Reggio Emilia, quando discuti cosa facciamo, cosa non facciamo, cercare convergenze o robe, c'è sempre l'elemento, no, esterno, superiore, no, al quale che viene visto quando invece, e che porta a rinunciare alla lotta quotidiana rispetto alla differenziazione di classe, rispetto alla lotta di classe, rispetto a quello che noi subiamo sui posti di lavoro, che poi, no, naturalmente sappiamo benissimo che il capitalismo, il rapporto sociale, non è certo solo una questione meramente legata al posto di lavoro, al salario, e quindi inficia tutte le nostre vite. Quindi abbiamo bisogno di proseguire, costruire, attraverso anche la lettura di ciò che è stato, la conoscenza, soprattutto la conoscenza di ciò che è stato, un avanzamento sul piano teorico che poi andrà rielaborato e riverberato sul piano pratico della prassi e delle lotte. Ed è per questo che abbiamo invitato Tommaso Cerusici, compagno dell'archivio storico della CGIL di Reggio Emilia e della FIOM nazionale, e Alessandro Marzolino, che è un compagno di Casa Bettola, che ci accompagneranno in questo dibattito, ai quali abbiamo chiesto nei loro primi interventi proprio una disamina storica delle lotte, dei cicli di lotte e anche del rapporto tra i lavoratori, gli operai in particolare, rispetto alle lotte contro i padroni, il rapporto con i sindacati, il rapporto con i partiti, il rapporto con la società, perché per cominciare questo percorso teorico di elaborazione abbiamo bisogno di fare una premessa importante, una premessa che ci porti ad avere le basi per poter poi proseguire questo percorso nella primavera. Verso il primo maggio. Verso il primo maggio di quest'anno. Tommaso, che è un compagno che lavora in CGIL e FIOM negli archivi storici, ci parlerà, a partire dagli anni Ottanta, dalla sconfitta operaia, se la possiamo chiamare così, di Mirafiori, quindi tutto il rapporto che c'è rispetto a quel mondo che viene, il mondo sindacale confederale, CGIL, FIOM e quant'altro, e ci accompagna fino ai giorni nostri. Alessandro invece la elaborerà ci racconterà di più da un punto di vista autonomo, dell'autonomia, dei lavori degli anni 60-70, no? Di tutto quel mondo che si è mosso in quegli anni là fuori dall'esperienza sindacale confederale. Abbiamo scelto questi due mondi, queste due opzioni differenti, perché noi dobbiamo essere anche capaci di riconoscerci in una stessa parte, perché noi siamo da una stessa parte, abbiamo la necessità di riconoscerci da una stessa parte con le dovute differenze, però dobbiamo anche cominciare a ricercare un orizzonte comune, ricercare una via d'uscita comune. Le differenze sono importanti, si portano avanti, si agiscono, si confrontano, ma è necessario per noi, quando parliamo di costruzione teorica, riuscire ad avere la maggioranza dello spettro possibile, no, per costruire proprio questa teoria. Io adesso lascio la parola subito a Tommaso e ruota ad Alle, e ringrazio ancora voi, ringrazio i nostri due relatori di essere qua stasera, e parola a Tommaso. Grazie mille. Ma sì. Allora, grazie innanzitutto, io ritorno qua dopo tanti anni e sono molto contento, e ci ho passato tanto tempo, tanti momenti anche molto divertenti, molto felici. E, allora, parto, allora, voi avete chiaramente delle aspettative che io non posso, diciamo così, colmare, nel senso che gli operai votano a destra, io non sono un sociologo, sono uno storico. Posso al massimo provare a raccontarvi perché in alcune fasi significative, penso per la storia non solo personale di chi sta qua, ma potrei dire quantomeno per l'Occidente e per un pezzo del mondo, perché gli operai in alcune fasi hanno votato a sinistra. Il termine votare mi piace anche poco, ma posso dire insomma hanno preso protagonismo, ecco. Questo sì. Dall'altro lato, il titolo della vostra rassegna è molto impegnativo, gli operai oltre il capitalismo, e parto proprio da questo. Penso che storicamente se ne può parlare forse in un paio di fasi per quanto riguarda il nostro paese, che sono passate alla storia come primo e come secondo biennio rosso, cioè parlo del 1919-1920 e poi il 1969-70, se vogliamo metterci anche la parte studentesca ci mettiamo il 1968, che poi fortunatamente in maniera un po' anomala in questo paese, tant'è che è oggetto di studio, si è sedimentato nel corso di tutti gli anni 70, gli operai, la classe operaia ha posto il tema del potere. Andare oltre il capitalismo vuol dire porre il tema del potere. In maniera, la metto come diciamo parentesi perché è un esempio importante, anche se non si è vinto, in questa città avete un esempio importantissimo, simbolico, ma non solo, che sono state le officine reggiane, quindi 50-51, la più lunga occupazione della storia del movimento operaio, in cui per un anno 4.000 erotti operai occuparono uno stabilimento, ma occupandolo scelsero di produrre tre trattori R60, i famosi R60, ponendo appunto il tema del potere e del sapere produrre oltre la proprietà, cioè oltre il padrone, oltre chi detiene i mezzi di produzione. Stesso tema che per certi versi fu appunto posto nel 1919-20 e nel corso dei cosiddetti lunghi anni 70 italiani, quantomeno in maniera più, diciamo, come posso dire, più pura e più forte, fino almeno allo shock petrolifero del 73, l'inizio delle ristrutturazioni poi dal 75 in poi. Comunque sia, gli anni 70 sono stati oggettivamente anni di avanzamento, ecco. Rispetto alle domande che tu mi poni, disamina è complicato. Perché gli operai votavano anche qui, parentesi, ne stavamo parlando prima a cena. Allora, io non sono, diciamo, un sociologo, però insomma mi occupo anche di queste cose, insomma leggo e studio. Dire che gli operai votano a destra già di per sé, insomma, mettiamola così, è un pochino esagerato. Sicuramente c'è un tema che io penso che, come movimento no global, già a partire dai primi anni 2000 veniva posto in maniera molto chiara, cioè una globalizzazione diseguale. C'è un prototipo, questo ormai è nella letteratura, ne stavo parlando con loro prima, consiglio un bel libro di Mario Del Pero, uscito per il Mulino qualche mese fa, che si chiama Il buio americano, che parla proprio della vicenda Trump, insomma, di come Trump è arrivato a fare per ben due volte il presidente degli Stati Uniti. Il prototipo non è tanto l'operaio di chi vota a destra, il prototipo è il maschio bianco, poco scolarizzato, che non vive nei grandi centri urbani. Qui parlo degli Stati Uniti. Lo dico in maniera anche tenera, una delle vittime predestinate della globalizzazione, che non ha fatto prigionieri, che ha travolto chi non si è saputo reinventare, questo termine è una roba di quelle che senti in TV, del capitalismo spicciolo, no? Cioè di chi si è ritrovato fuori da dinamiche possibili per reinventarsi da un punto di vista lavorativo, formativo, rispetto a un mondo iperproduttivo, iperaccelerato, che lo ha di fatto investito. Questo soggetto qua è altamente, mettiamola così, risentito. Questo suo risentirsi richiede forme di protezione. Forme di protezione sono anche gente che ti viene a dire che i dazi sono nel suo interesse, che gli immigrati, se stanno anche un po' a casa loro, insomma è meglio, perché quel pezzettino di welfare che comunque si taglia costantemente, ma quel pezzettino rimasto andrà a lui piuttosto che a qualcun altro. Quelle retoriche che non sto ad approfondire, che tutti voi insomma conoscete, questo tema qua c'è. È un tema che però storicamente questo c'è sempre stato, cioè il mito un po' adesso cito Bartolomé de las Casas, che era un frate spagnolo che arrivò in Messico e scrisse il libro Il mito del buon selvaggio. Cioè questo mito della classe operaia come l'Eden, il paradiso, è un po' un'invenzione, nel senso che le contraddizioni ci sono sempre state, cioè chi frequenta i luoghi di insomma lavoro lo sa bene. Il tema è che in alcuni momenti e passaggi storici è la società che ha eletto quel pezzo di mondo come centrale per l'emancipazione di tutto quello che c'era intorno, ok? Passatemi il termine, non voglio dire che sono stati coccolati, ma sono stati centrali, perché salvare, emancipare, far crescere quel pezzo lì significava costruire intorno un contesto per cui si salvavano, si emancipavano, crescevano tutti. Questo è stato il centro. Non è che la classe operaia ha abbandonato la sinistra, e neanche, io non voglio neanche dire che la sinistra ha abbandonato la classe operaia, perché poi mi sentirei di mancare, diciamo, rispetto a tanti compagni che, no, pur nel micro frazionamento, però che si spendono e ci credono su questo. È la globalizzazione, è il mondo, è il mainstream, è la narrazione, questa, che ha abbandonato, se volete, la centralità del lavoro. E ve lo dice uno, su questo parentesi personale, che non è che viene da un mondo iperlavorista e dice: oddio mio, adesso mi devo identificare solo in quello che faccio. Anzi, quando vedevo lì la campagna Yes We Cash, mi ricordo quando chiedevamo un reddito minimo, che c'era Bersani, per cui insomma voglio dire, no? Bersani segretario del PD, o quando diavolo era, 15-20 anni fa forse. Comunque sia, lasciamo perdere questo. dicevo, 19, 20 e anni 70. Due passaggi fondamentali che però anche lì vengono da momenti, se volete, tragici. Questa cosa qua, adesso io non voglio portare una vena di, diciamo, pessimismo, però è così. Il 1919-1920, in particolar modo 1920, l'occupazione delle fabbriche. Per farla breve, poi dammi tu, quanti minuti ho io per... Okay. Allora, nel 1920 si crea un contesto per cui circa 400.000 operai, alcuni in armi, la famosa Guardia Rossa, occupano diverse decine di stabilimenti in questo paese. Perché lo fanno? Perché nel 1919 c'è il primo contratto nazionale dei meccanici, di fatto, ai tempi si chiamava concordato, non si chiamava ancora contratto nazionale, è il contratto delle 8 ore, ok? 8 ore al giorno, una battaglia fondamentale, sin dalla prima internazionale venivano chieste 8 ore, 8 ore lavoro, 8 ore dormire, 8 ore tempo libero, quindi era proprio una è il motivo per cui nasce il primo maggio, tanto per essere chiari, ok? Quindi era una cosa fondamentale, ma come ci arrivano? Ci arrivano dopo una tragedia immane, che è la prima guerra mondiale, in un contesto in cui un paese con molti, quello è il mio, guarda, molti contadini al fronte, mandati a morire, e molti operai irregimentati in fabbrica, con turni massacranti, salari bassi, chiaramente impossibilità di fare sciopero, perché insomma, no? In tempo di guerra, se tu produci armamenti non puoi, vieni messo al muro, male, bene, vieni buttato in una compagnia di riformati, si chiamava, e mandato al fronte, e quindi morivi qualche giorno dopo, insomma, ecco. Però le grandi conquiste arrivano sempre dopo delle tragedie, tra virgolette. Questo è un po', adesso non voglio buttarla sul lato pessimista, ma è un po' così. Certo che c'era stato un fatto non di poco conto, e qui c'è la fiammella e la speranza. Nel 1917 in Russia era successa una cosa non proprio secondaria, cioè i soviet, di operai, contadini e soldati, avevano fatto la, diciamo, rivoluzione sovietica, e quindi nel 1920 un pezzo consistente di questi operai pensano di poter dare una svolta a questo paese, cioè dare una svolta sul modello sovietico. So che farà ridere, io la racconto sempre così perché oggettivamente andò così, la rivoluzione fu messa ai voti, di fatto, nel senso che ai tempi c'era la FIOM, che già c'era, ma non si chiamava Federazione Impiegati Operai Metallurgici, era la Federazione Italiana Operai Metallurgici, gli impiegati entreranno solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e c'era la CGDL, che è la mamma dell'odierna CGL, e il partito, ai tempi ce n'era uno solo, il Partito Socialista. Le due direzioni si riuniscono in una famosa riunione di settembre 1920 a Milano, e mettono i voti una cosa semplice: l'occupazione delle fabbriche deve rimanere sul piano meramente sindacale, quindi con rivendicazione di carattere economico e di potere in fabbrica, o deve tramutarsi in una rivoluzione politica, e quindi nello schema socialista classico la guida passa al partito, cioè la prende in mano il Partito Socialista e fa la rivoluzione su stampo sovietico. 60% contro 40% rimane sull'ambito sindacale. Quindi è una rimane una battaglia di, diciamo, natura sindacale. Adesso non voglio farla più semplice di quello che è, nel senso che è una cosa complessa in un contesto in cui, per esempio, il modo in cui ne escono, o meglio, mettiamola così, un paio di, diciamo, informazioni. Uno, questa cosa non è così secondaria come finita, perché il pezzo, per esempio, torinese, che non era d'accordo con questa svolta, sarà poi il pezzo che darà vita al Partito Comunista d'Italia nel 1921. Giovanni Parodi, per esempio, segretario della FIOM torinese, che poi sarà, insomma, anche segretario generale per un breve periodo, ma il pezzo dell'Ordine Nuovo, quindi Gramsci, Togliatti e compagnia. L'altra parte, invece, vuol dire fascismo, cioè vuol dire che i padroni, pur mantenendo un ambito sindacale, voi pensate ai 400.000 operai che occupano l'Ilva, le acciaierie di Terni, i cantieri navali a Palermo, l'Ansaldo, la Breda, siamo nel settembre del 1920, la marcia su Roma è dell'ottobre del 22. Si è arrivato, se si leggono i resoconti di cosa la FIOM pensava di aver portato a casa in quel momento, erano come ne esce il governo? Con il famoso decreto Giolitti del 19 settembre 1920. Adesso mi spiace che quando faccio la formazione lo posso proiettare, ma vi leggo due righe appena di cosa dice il decreto Giolitti. Giolitti, il famoso trasformismo giolittiano, no? Ecco, però per certi versi l'inizio dell'ingresso delle masse nella politica di questo paese. Il decreto Giolitti, che serve per sgomberare le fabbriche, ok? Cioè per dire agli operai, ok, uscite, avete vinto, dice, viene costituita una commissione paritetica formata da membri della CGIL e della Confindustria, ve la taglio breve, la quale formuli quelle proposte che possono servire per una proposta di legge. Su cosa? Sulla base allo scopo di organizzare le industrie sulla base dell'intervento degli operai al controllo tecnico, finanziario e amministrativo dell'azienda. Cioè l'occupazione delle fabbriche del 1920 in questo paese finisce con una cosa che, se non è Unione Sovietica, non è neanche però la cogestione modello tedesco, è un po' oltre, cioè ruolo paritario sul finanza, amministrazione e controllo tecnico. Ok? Capite perché gli industriali si sono cagati in mano, siamo tra noi e si può dire, e hanno incominciato a fare quello che i loro colleghi agrari nella pianura padana e anche al sud, soprattutto in Puglia, facevano già da un annetto, cioè finanziare cospicuamente un consesso di ex reduci un po' spostati di testa, picchiatori assatanati, cioè quello che sarebbe diventato il Partito Nazionale Fascista. Ok? Con lo scopo di assaltare, distruggere tutto quello che dal punto di vista politico-sindacale si era organizzato. Bisogna che salto perché sennò mi perdo. Vi ho citato il secondo momento in cui gli operai affrontano la questione del potere. Apro e chiudo parentesi. Non che la questione salariale sia una questione secondaria, cioè la questione salariale è nella contrattazione il minimo comun denominatore per costruire una identità altra, cioè il dire io contratto la mia condizione, contratto la mia prestazione, non sono uno schiavo, ok? Quindi contratto collettivamente insieme ai miei compagni, ai miei colleghi, i minimi, i contratti nazionali, quindi non sto dicendo che non sia una cosa importante. Dico che nei momenti di picco chiaramente si è affrontato anche la questione del potere in fabbrica e nella società, e su questo c'è poco da poterci girare intorno. 69-70 forse la parte un po' più conosciuta, insomma, veniamo da sommovimenti a livello internazionale. Anche qui Reggio Emilia è un punto importante, però Reggio Emilia è un punto importante perché sin dal 1960, con i fatti di luglio, c'è una saldatura importante tra due cose: tra il mondo resistenziale partigiano, io dico sempre i vecchi partigiani, e poi per dico no, sono vecchi perché nel 60 la guerra era finita 15 anni prima, quindi era gente che aveva 40-45 anni quando andava grassa, molto incazzati ancora, si ricordavano dei loro compagni morti qualche anno prima, quindi quando pensiamo a luglio 60 non dobbiamo pensare ai vecchi partigiani, insomma, pensiamo a gente che è più giovane di noi, ecco, insomma, di noi qua. E E con le famose magliette a strisce. I giovani, a Reggio Emilia chiaramente non c'è il fenomeno dell'operaio massa, cioè l'operaio che dal sud va nelle grandi aziende del nord, l'immigrazione metalmeccanica diciamo, arriva dopo, ecco, appunto a Reggio Emilia. Però c'è la capacità di saldare quei giovani, che questa è un'altra cosa che quando dico insomma sempre, voi dovete pensare che, lo stavo raccontando prima, oggi è un paese completamente invertito, quando parliamo del 68-69 parliamo di due under 30 per un over 30, ok? Cioè c'era una persona con sopra 30, che aveva più di 30 anni per due sotto, oggi è esattamente il contrario, quindi oggi è un paese molto più vecchio, ok? Non so come dire, perché c'erano i famosi figli del baby boom, questa è una cosa che non c'entra niente la storia, è una cosa proprio antropologica, cioè quando stanno per finire le guerre si intravede un mondo migliore, la gente si, insomma, sta insieme, gli piace stare insieme e far festa, ecco, insomma, mettiamola così. Per cui il luglio 60, però, se volete, è in nuce un po' quello che poi accadrà. Noi chiaramente la vediamo solo come movimento studentesco e poi protagonismo nelle fabbriche a partire dal 69, ma voi dovete pensare a quello che ha rappresentato per il mondo, per esempio, le battaglie anticoloniali, o una cosa, per esempio, nel mondo metalmeccanico non secondario, il rinnovamento cattolico, Papa Giovanni XXIII, cioè è una chiesa che, per carità, rimane chiesa, ma banalmente smette di dire la messa in latino, si apre alle comunità di base, cioè non, per loro è una sorta di, insomma, rivoluzione. Non ti spiegheresti certe aperture della FIM CISL, per esempio, negli anni 60-70, che su alcuni passaggi fu anche più sperimentatrice rispetto alla FIOM. La FIOM, per esempio, contratto nazionale 69, sugli aumenti uguali per tutti, insomma, spiegare a un operaio comunista che l'ultimo arrivato doveva prendere uguale a lui che aveva fatto l'apprendista, aveva fatto l'operaio, poi si era specializzato, sempre iscritto al partito, perché tutti uguali, insomma. La FIM CISL su questo fu più, tra virgolette, innovativa, non c'entra niente ormai purtroppo con la CISL, con la FIM e con la CISL di oggi, ma insomma è un altro mondo. Però ripeto, 69 si pone a partire da una cosa molto semplice, anche lì adesso mi fermo, sempre perché gli operai votano a destra. Lì partì molto, non tutto, molto, per esempio, dai temi della salute in fabbrica. Cioè il fatto che c'era consapevolezza che certe mansioni erano usuranti, c'era consapevolezza che certe mansioni erano nocive, c'era consapevolezza che il ciclo produttivo, così come era organizzato dal padrone, era poco funzionale, nocivo e faceva male. Si impone il tema di cosa produco e come lo produco, con mille contraddizioni, mille lotte. Dall'altro lato c'era stata però prima la cosa del movimento studentesco, cioè il passaggio per cui io penso, per esempio, tutto il tema della medicina del lavoro è stato un tema fondamentale di giovani, magari, adesso la sto romanzando un po', ma insomma, magari io dico figli di operai a loro volta arrivati a studiare medicina, magari sono numeri minimi questi, però considerate che nel 68 già l'università di massa c'era, stava incominciando, cioè l'ascesa sociale per cui il figlio di un operaio o di un quadro poteva andare all'università a studiare, già questa cosa era una cosa normale, non era più l'università di elite fino agli anni 50 in cui te la giocavi con 40-50 mila laureati in tutta Italia ogni anno, cioè in cui i paesi c'era l'avvocato, il notaio, il medico, il farmacista, finito, ok? Insomma, c'erano altri numeri. Ma ripeto, anche lì sul tema della produzione, del controllo della produzione, di come si produce e cosa si produce in maniera, come posso dire, il termine salubre, non so se è quello giusto, ma insomma. E da lì capite, io lo uso sempre come rimaldello questo, perché poi ti spiega anche il passaggio dopo. Quindi non è solo il potere in fabbrica del voglio produrre, non voglio morire, voglio produrre in maniera sana, ma questo tema del come produci, legato alla salute, ti pone, e qui siamo già al contratto dopo, il 1973, il territorio intorno a te. Perché quell'esperienza lì del potere in fabbrica, per una certa fase, travalicò le stesse fabbriche, travalicò i territori. La CGIL, questo è un tema anche poco studiato, oltre alla straordinaria esperienza dei consigli di fabbrica, ma per una fase ci furono i consigli di zona. Di zona vuol dire che stasera qua saremmo stati X delegati della fabbrichetta meccanica lì, X delegati della scuola che stava là, X delegati dell'aziendina tessile che stava di là, e discutevamo del territorio intorno a noi. Per questo quando dici gli operai non votano, perché gli operai votano a destra? Il sindacato per una parentesi che però oggettivamente ci ha dato le conquiste più grandi in questo paese, non dico soltanto in fabbrica, dico anche proprio a livello sociale diffuso, pensate solo alla stagione delle insomma riforme, ecco, mettiamola così, non voglio citare quelle facili, aborti, divorzio, i manicomi, ma banalmente il fatto che c'è, per quanto lo vogliono scassare, un servizio sanitario nazionale, cioè che se caschi per terra quantomeno un'ambulanza ti viene a raccattare e non ti chiede il banco, ma come negli Stati Uniti per esempio, ecco, insomma. Questo protagonismo, per cui il tema non era gli operai non votavano a destra, era gli operai erano protagonisti dal lavoro, e tutti, anche i gruppi, anche tutti comunque si facevano riferimento a quello in maniera dialettica, anche, no, appunto, salario zero, lavoro intero, salario intero, lavoro zero, cioè nel senso, lasciamo perdere da chi era più lavorista o meno, ma tutti si facevano rapporto e prendevano coscienza rispetto a quello che era l'avanzamento della classe operaia. Ripeto, questa cosa dei consigli di zona e della salute secondo me è molto importante, perché, e chiudo, ci richiama a un protagonismo che secondo me per certi versi gli spazi sociali ancora oggi in questo paese hanno. È ovvio che è cambiato il mondo, io non ho parlato per nulla di quello che tu mi avevi detto, cioè il 1980, lo faccio semplicemente chiudendo, è cambiato il mondo. L'80 non è soltanto la sconfitta alla Fiat, cioè il fatto che la Fiat voleva fare 14.000 licenziamenti, poi farà 24.000 richieste di cassa integrazione, mettendo i nomi in chiaro, quindi si contrapporrà chi sarà salvato e chi sarà sommerso. Il tema è che stava arrivando la globalizzazione neoliberista. Nel 1980, quando c'è la sconfitta operaia alla Fiat, sono gli stessi anni in cui Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, sostituisce i controllori di volo in sciopero con la Guardia Nazionale, quindi usa dei militari per sostituire dei lavoratori civili in sciopero, e sono gli anni in cui Margaret Thatcher parte con la battaglia feroce contro i minatori. Stava cambiando il mondo, un mondo purtroppo molto più simile a quello di oggi, in cui rispetto al lavoro conta molto di più la rendita finanziaria, la speculazione, le merci si possono muovere e gli uomini no, un mondo in cui ci hanno raccontato che per essere liberi non devi stare 8 ore sul luogo di, diciamo, lavoro, magari a fare lavori manuali, che per carità, io non dico che sia la panacea di tutti i mali quello, però dall'altro lato il mondo che ci hanno venduto oggi non mi pare francamente meglio, se non altro perché, ritornando e chiudo davvero a quel 1919-20, rimette in campo scenari di guerra non possibili, guerra già in atto oggi, guerra, ritorno ai nazionalismi, in battuta, dicevo prima, mi rendo conto, la fase non è facile, ma un grande vero tema del operaismo, post-operaismo di questo paese, dall'operaismo più tradizionale, dogmatico, fino a Negri, è l'internazionalismo. Il movimento operaio è nato sull'internazionalismo. La prima internazionale, la seconda, anche la terza sovietica, si raccontava, pur doveva essere fedele a Stalin, ma era formalmente internazionalista. Questa roba oggettivamente è un macigno, non voglio... oggettivamente è un grande macigno oggi. Scusate, sono un po' confusionario. Più grande la confusione, più carne al fuoco si mette, più c'è possibilità di spaziare nel ragionamento, che è quello di cui necessitiamo oggi. Lascio la parola ad Alessandro. Ok, uso questo. Funziona? Allora, io adesso vorrei discutere con Tommaso, però non lo faccio perché ho un compito da svolgere. Mi piacerebbe, cioè, lui, vabbè, insomma, io ho scritto, quindi sarò molto più noioso perché leggerò, però insomma va bene così. E parto sostanzialmente da dove ha finito Tommaso, nel senso che io parlerò della sconfitta del movimento operaio, ok? Però leggo, scusate, ma... allora, un'altra cosa che devo dire, che sollecitato da Antonietta, è che userò il maschile, no, eviterò di dire lavoratrici e lavoratori. Dico lavoratori, non dico operai, dico operai, insomma, perché è così, insomma, nel senso che mi semplifica un po' la cosa. Allora, parto e vorrei anche dare qualche elemento di conoscenza per quello che riesco. Inizio. Allora, il creare una nuova narrazione, se non vuole essere idealista, vuol dire rileggere il passato in quanto condizione del presente. Ma il presente non va inteso in senso passivo, come risultato del passato, ma in senso attivo, come compimento del passato. Perciò il passato non va studiato così come è stato, ma per ciò che non è stato, per ciò che poteva essere e non è, ed è rimasto incompiuto, e che chiede ancora a noi oggi il suo compimento. Allora, alcuni elementi per iniziare una rilettura del passato li abbiamo acquisiti grazie ai dibattiti e alle riflessioni che abbiamo svolto negli spazi sociali con ricercatori e studiosi che ci hanno dato degli strumenti, dei concetti che possiamo mettere in opera. Allora, partiamo dalla percezione abbastanza diffusa che ci troviamo nel mezzo di trasformazioni di cui abbiamo segni evidenti, di cui diceva anche Tommaso, tutti negativi: guerre, riarmi, genocidi e un Occidente di nuovo in mano alle destre. L'ipotesi è che per quante trasformazioni ci siano in corso, esse avvengono tutte all'interno dello stesso contesto. Sono cioè trasformazioni con cui il sistema politico-economico dominante prova a mantenersi in piedi e a riprodurre le sue forme di dominio. Il punto di partenza che si può prendere, guardando al passato, è il 1980, appunto. Cioè la vittoria elettorale della Thatcher e di Reagan e l'adozione di politiche neoliberiste da parte dei governi più importanti, sia politicamente che economicamente che militarmente, dell'Occidente. È ovvio che questa svolta era stata preceduta da eventi molto importanti. Già nel 1971 si era avuta la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro, cioè era iniziata una trasformazione dei mercati finanziari internazionali negli anni 70 si parlava dei mercati paralleli degli eurodollari e dei petrodollari, per chi ha una certa età se lo ricorda, che infrangeva uno dei postulati cardine delle politiche keynesiane che erano state seguite da tutti i governi occidentali dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè il controllo e la limitazione dei flussi di capitale da parte degli stati nazionali. Da allora, lentamente ma progressivamente, i flussi di capitale si sono sempre più sganciati dai limiti nazionali legati al commercio estero e alle politiche valutarie e, per così dire, liberati dalla materialità della produzione, trasformandosi da capitali industriali e commerciali in capitali finanziari. Questa trasformazione diventa dal 1980 rivendicata e perseguita come nuova teoria economica, il neomonetarismo, e come nuova politica economica, il neoliberalismo. Ma appunto, ritornando a quello che raccontava Tommaso, il 1980 è un anno importante perché questa trasformazione delle politiche economiche dei paesi occidentali, dalle politiche keynesiane alle politiche neoliberiste, è stata possibile ed è stata ottenuta solo grazie alla sconfitta del movimento operaio. In quell'anno i governi ingaggiano una battaglia contro i lavoratori che porterà al cedimento dei sindacati, ad una posizione difensiva che dura ancora oggi. Allora, sono battaglie che durano mesi: Thatcher contro i minatori, Reagan contro i controllori di volo, e in Italia questa battaglia si combatterà alla Fiat. Dopo un mese di occupazione i sindacati firmeranno un accordo che prevedeva 24.000 licenziamenti mascherati da cassa integrazione. Ora, mettiamo in evidenza quindi che il 1980 non segna tanto o solo una svolta di carattere economico, ma una svolta politica, la vittoria di una parte e la sconfitta dell'altra. Allora, chiediamoci ora chi è stato sconfitto. Nel corso degli anni 70 cresceva una netta contrapposizione tra quello che veniva chiamato il vecchio movimento operaio e quello che si autodefiniva l'altro movimento operaio. Allora, proviamo a cogliere la differenza tra i due. Le lotte degli anni 60, in particolare biennio 68-69, avevano portato ad un'importante e decisiva conquista, emblematicamente rappresentata dallo Statuto dei lavoratori. Gli operai diventavano finalmente soggetti di diritto, concretizzando il principio costituzionale che poneva i lavoratori come cittadini e il lavoro come diritto. Diritti individuali e diritti sindacali avevano sbriciolato le gerarchie di fabbrica. La subordinazione si era trasformata in insubordinazione, okay? Scioperi a go-go. E soprattutto lì, appunto, quello che diceva, cioè i capi entravano scavalcando il muro, perché non erano ben visti. Allora, la differenza tra vecchio e altro movimento operaio è che per il primo i lavoratori dovevano restare tali, si contrattavano le condizioni, si decideva il salario, ma poi si tornava a lavorare. L'emancipazione dei lavoratori non ne trasformava la natura di lavoratori. L'altro movimento operaio era invece fatto da persone di tutti i tipi: studenti lavoratori, lavoratori saltuari, ragazzi che andavano in fabbrica ma poi si licenziavano, donne che rivendicavano il salario per il lavoro domestico. Le loro lotte erano per lo più finalizzate a quello che allora si chiamava salario indiretto: servizi sociali, consultori, trasporti gratuiti, libero accesso alle mense universitarie e anche espropri nei supermercati, entrare gratis nei cinema o ai concerti. Se il vecchio movimento operaio subì una sconfitta, ma è sopravvissuto e continua tuttora a svolgere la sua funzione tradizionale di mediazione tra lavoratori e padroni, l'altro movimento operaio è stato del tutto sussunto entro i processi della valorizzazione capitalistica, che è riuscita a valorizzare le competenze di una generazione scolarizzata e altamente socializzata, riducendola di nuovo a forza lavoro, per un mercato del lavoro che nel frattempo è stato sempre più segnato da precarietà, mancanza di rappresentanza sindacale, disapplicazione dei diritti e bassi salari, ma che negli anni 80, nel decennio 80-90, ha distribuito molta ricchezza, Si pensi solo agli effetti della scala mobile con un'inflazione a due cifre, all'equo canone, alle politiche per l'acquisto della casa, alla cassa integrazione e prepensionamenti. Allora, definiti i margini della sconfitta del movimento operaio, vecchio e altro, vediamo cosa hanno prodotto le politiche neoliberiste. Allora, come si è detto, il loro carattere precipuo, la loro distinzione più marcata che le ha distinte e contrapposte alle precedenti politiche keynesiane, è la liberalizzazione dei flussi di capitale, la loro emancipazione un'emancipazione limitata, diciamo così, dai flussi commerciali, e quindi la relativa indipendenza della valorizzazione del capitale finanziario internazionale dalla produzione materiale e dalla crescita del reddito nazionale dei singoli paesi. Ora, per sintetizzare una questione che richiederebbe un'analisi molto ampia, si possono richiamare tre concetti che sono tre campi di studio di tre diversi autori: il divenire rendita del profitto, la concentrazione dei capitali e la difeudalizzazione della società. Per quanto queste tre diverse prospettive aprano a traiettorie di ricerca tra loro diverse, quello che le unisce è che il risultato di 40 anni di neoliberismo ha reso di nuovo, come era negli anni dell'Ottocento fino appunto al biennio rosso del 1920, ha reso di nuovo la proprietà il vettore principale per l'acquisizione e la concentrazione della ricchezza. La proprietà e non il lavoro, la proprietà in alternativa e contro il lavoro. Ribadiamo che questo risultato è stato possibile grazie alla sconfitta politica del vecchio e anche dell'altro movimento operaio. Il neoliberalismo, per conformare la società al suo obiettivo di ristabilire il comando sui lavoratori, ridotto di nuovo da soggetti di diritto a forza lavoro, ha da una parte ridotto le difensive il vecchio movimento operaio, decentrando la produzione e dividendo i lavoratori tra garantiti e precari, cittadini e non cittadini, vecchi e giovani, e dall'altra sussumendo l'altro movimento operaio, riducendo l'emancipazione dal lavoro in prospettive individuali e soggettive di autovalorizzazione. Questo ha significato anche una capitalizzazione della società, cioè una messa al lavoro e a profitto di attività sociali e quindi anche di competenze che erano fino allora per lo più libera espressione e organizzazione politica, dal divertimento all'arte, dal benessere allo sport, dalle droghe all'assistenza, fino alla sanità e all'istruzione. Io penso sempre alla WISP, cioè è un'organizzazione politica, era un'organizzazione politica, lo sport popolare. Adesso non è così. Quindi, allora, cambiamo prospettiva e chiediamoci se oggi il capitale ritorna a porre la proprietà come fattore principale della propensione e accumulazione di ricchezza contro il lavoro dei lavoratori, può forse significare che il capitalismo non è più in grado di sussumere e mettere a profitto le forze produttive, se non in modo regressivo, come mero estrattivismo, impedendone così ogni ulteriore sviluppo? Dopotutto il fascismo, come forma politica, è nato, e possiamo dire è rinato, proprio nel momento in cui era impendente una profonda trasformazione sociale, proprio per impedire tale trasformazione, tenendo bloccata la società. Un blocco che già sappiamo che conduce a far esplodere le forze complesse nella guerra e nella distruzione. Da qualunque parte emergono contraddizioni, conflitti e spinte per il cambiamento, ognuna di queste parti diventa parte del nemico contro cui combattere. Non solo chi rivendica il diritto essenziale alla libertà di movimento, all'indipendenza e all'autodeterminazione, ma anche i climatologi e i virologi sono diventati nemici. Ma cosa sono le forze produttive? Un po' lunga la storia. E in che modo, spero che in che modo esse si sviluppano? Allora, la via più semplice è leggere alcuni passaggi di Marx. Allora, leggo, vado avanti. Allora, in quanto aspirazione incessante alla forma generale della ricchezza, il capitale spinge però il lavoro oltre il limite del suo bisogno naturale e in tal modo crea gli elementi materiali per lo sviluppo di una individualità ricca che è universale nella produzione quanto nel consumo, di una individualità il cui lavoro perciò non si presenta più nemmeno come lavoro, ma come pieno dispiegamento dell'attività stessa, di un'attività nella quale la necessità naturale nella sua forma immediata è scomparsa. Al bisogno naturale infatti è subentrato un bisogno generato storicamente. Dunque il capitale è produttivo, e cioè un rapporto essenziale per lo sviluppo delle forze produttive sociali. Esso cessa di essere tale solo quando lo sviluppo di queste forze produttive trova un limite nel capitale stesso. Lo sviluppo del capitale fisso, delle macchine, del sistema di macchine, mostra in quale natura il sapere sociale generale, la conoscenza, si è trasformata in una forza produttiva immediata e quindi fino a che punto le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo dell'intelligenza generale e rimodellate in accordo con essa, in quale misura le forze produttive sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, bensì come organi immediati della pratica sociale, del processo reale della vita. Altra citazione. L'economia nel reale consiste in un risparmio di tempo di lavoro, ma questo risparmio si identifica con lo sviluppo della forza produttiva. La capacità di godimento è condizione del godimento stesso, e dunque il suo primo mezzo. E questa capacità è lo sviluppo di una disposizione individuale, è forza produttiva. Il tempo libero, che sia tempo di ozio, sia tempo per un'attività più elevata, ha trasformato il suo possessore in un altro soggetto. Ed è proprio come altro soggetto che questo entra poi anche nel processo di produzione immediata. Ogni progresso dell'agricoltura capitalistica costituisce un progresso non solo nell'arte di rapinare l'operaio, ma anche nell'arte di rapinare il suolo. Ogni progresso nell'accrescimento della sua fertilità per un dato periodo di tempo costituisce insieme un progresso della rovina delle fonti durevoli di questa fertilità. La produzione capitalistica sviluppa quindi la tecnica e la combinazione dei processi di produzione sociale solo minando al contempo le fonti da cui sgorga ogni ricchezza, la terra e l'operaio. Fine della citazione. Allora, se arrivo alle conclusioni. Se lo sviluppo delle forze produttive consiste nella progressiva socializzazione del lavoro, nella preeminenza dei bisogni sociali su quelli individuali, nella trasformazione dell'individuo da individuo borghese in individuo sociale, nella impossibilità di emancipazione e autovalorizzazione se non dentro a percorsi collettivi di trasformazione della società, allora possiamo intuire come il neoliberalismo, che ha vinto sussumendo le forze produttive, offrendo soluzioni individuali e riducendo i lavoratori a merce forza lavoro, non possa più offrire uno sbocco a forze produttive che nel frattempo si sono ulteriormente potenziate attraverso attività che inglobano ogni aspetto della vita collettiva, dalla società, dalla socialità all'ambiente, e che già si fanno carico con il proprio lavoro di dare risposte creative e innovative a ogni bisogno della società. Il neoliberalismo ha avuto un obiettivo ambizioso, quello di creare un cosmo, un ordine sociale, in cui gli individui fossero liberi di scegliere, ma la scelta era limitata alle opzioni offerte dal mercato e ovviamente alla quota di ricchezza a cui si aveva accesso. Oggi, dopo 40 anni, le opzioni offerte dal mercato, così come la quota di ricchezza disponibile, si è ridotta vistosamente a causa della concentrazione della ricchezza e i limiti posti alla produzione. E diventa sempre più insensato identificare la libertà con la libera scelta individuale. Oltre la scelta vi è la decisione, che è prima di tutto un decidersi, un mettersi in gioco, un essere disposti a farsi trasformare dentro un percorso collettivo, sociale e politico, che non delega al mercato le proprie opportunità e possibilità. La piena espressione delle forze produttive del lavoro socializzato, il loro dispiegamento produttivo e creativo, piuttosto che distruttivo, è reso urgente dalla decadenza del capitalismo, che è tornato ad usare la forza e la violenza in modo spregiudicato, ed è reso possibile dalla consapevolezza dei bisogni sociali a cui possiamo dare risposte positive. A questo scopo è allora utile la rilettura del passato e della sconfitta del movimento operaio, riprendendo nelle nostre mani quella che era la posta in palio in quella lotta, per rilanciarla in nuove lotte. I lavoratori come soggetti di diritto non sono lavoratori che hanno dei diritti, ma sono cittadini che lavorano esercitando diritti, che quindi non lottano solo per il salario, ma per una trasformazione del modo di produzione, lottando contro lo sfruttamento delle risorse da parte del capitale, per un salario diretto ed indiretto sempre più sganciato dalla prestazione lavorativa immediata, richiedendo che le politiche fiscali non siano indirizzate a soluzioni individuali come la decontribuzione o la riduzione dell'IRPEF, ma a soluzioni collettive come il finanziamento dei servizi sociali, il miglioramento del territorio e quindi della qualità della vita, il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sociali. La ricerca di prospettive di lavoro che rispondano alle competenze culturali e sociali della forza produttiva del lavoro socializzato possono svilupparsi ed emanciparsi se sono prospettive collettive e non individuali, politiche e non economiche. Di unificare queste due conquiste del passato, che per 40 anni sono state sussunte e sfruttate dal capitalismo neoliberista, può significare ricomporre l'unità della classe. Non per rimanere classe subalterna, ma per immaginarsi e organizzarsi come soggetto politico attivo per una via d'uscita dal capitalismo. Beh, diciamo che le ultime righe che hai letto sono lo scopo principale del nostro presente e del nostro futuro, chiaramente. È proprio quello. Allora, per aprire anche dopo queste due relazioni che dobbiamo fare? Molto importanti, per aprire un dibattito torniamo un attimo, vorrei ripartire un attimo da questa narrazione, no? Gli operai votano a destra. Questa narrazione, gli operai votano a destra, sarà ormai una decina d'anni che ce la portiamo dietro. Ogni elezione politica in cui vince la destra, forse anche di più, dice Tommaso, comunque sono anni in cui la destra vince, no, le elezioni, cala il numero di elettori, ma la destra continua comunque a vincere. Comunque sono più di 10 anni che ogni volta che c'è un'elezione, ogni volta che a livello o legislativo o presidenziale, a seconda dei sistemi politici degli stati, delle nazioni, vince la destra, viene detto la destra vince, la motivazione principale è perché gli operai votano la destra, perché gli operai hanno abbandonato la sinistra. Ci sono titoloni, quasi tutti i giornali filopadronali che vanno da Corriere, Repubblica, Stampa, che Repubblica e Stampa dovrebbero essere quelli un po' più di sinistra, parlo di quelli italiani, ma lo possiamo riflettere poi in tutti i giornali francesi, tedeschi, americani, scandinavi, spagnoli e quant'altro. Perché gli operai votano a destra? Gli operai votano a destra perché la sinistra ha abbandonato gli operai. La sinistra ha abbandonato gli operai perché pensa solo agli immigrati, pensa solo alle persone genderizzate, al gender, quindi alle questioni di genere, ai monopattini elettrici, al green cambiamento climatico, fino ad arrivare ultimamente che è andata a definirsi tutta questa, no, la teoria woke, il woke che viene dagli americani. Non stiamo qua adesso a discernere su cosa vuol dire woke, da dove deriva, che ha un senso molto serio, non è quello che viene descritto dalla destra. Però oggi woke riprende, tiene insieme tutte queste cose, no? La sinistra si occupa di tutto ciò che è futile per l'operaio, quindi l'operaio vota a destra, come se poi, e questa narrazione diventa, a un certo punto, diventa percezione. E quando la narrazione, se tu riconosci che una narrazione di destra, una narrazione è una narrazione, dici, vabbè, una narrazione, il loro racconto è una propaganda. Ma quando la narrazione diventa percezione, è qua che diventa un problema. Noi lo sappiamo bene che viviamo le città, i reati calano, ma la percezione di sicurezza aumenta, perché aumenta la propaganda sulla percezione di sicurezza. Nonostante venga detto anche in quei maledetti talk show, no, della televisione, che coi dati la criminalità diminuisce, anche la microcriminalità, ma aumenta la percezione dell'insicurezza, quindi cerca di più sicurezza. Quindi aumentando la percezione aumenta il grado di, tra virgolette, verità. Sappiamo che la verità non esiste, tutta una questione di rapporti di forza, però aumenta il grado di verità di questa diceria. Ma se poi andiamo a vedere poi in fondo, a livello proprio numerico, perché come noi compagni e compagni di spazi sociali diciamo da tempo, abbiamo bisogno della cura dei particolari, e i particolari si riescono a leggere solo andando dentro e studiando bene le cose. La percentuale operaia sul lavoro materiale, quindi lavoro vivo, che comprende operai di fabbrica, comprende chi come me fa il giardiniere, chi lavora nelle cooperative come fa il lavoro che fanno tanti qua, l'educatore, quant'altro, tutto il resto, e arriva fino agli impiegati, e arriva fino a quelli che stanno lì a produrre gli algoritmi e a produrre l'open AI, no? Gli operai dei computer che producono gli informatici, che sono lavoratori manuali, quello loro, certo, usano più la testa, ma stanno lì 8 ore, 9, 10, tutto il resto, e sono pagati anche poco rispetto anche al valore che producono, non rispetto a quello che fanno, ma rispetto al valore che producono. Allora, tutti noi, no? Adesso mi sono un po' perso andando verso i lavoratori, ma la percentuale, me lo ripeto, grazie, la percentuale di operai metalmeccanici, che quella a cui si riferisce la narrazione, no, e quindi anche la percezione sul lavoro generale, è del 10%, contando il fatto che di questo 10%, anche questo 10% subisce il calo, no, del voto, dell'attrazione del voto. Quindi già 50% di questo 10% non vota, come, no, succede adesso in tutte le elezioni, no? Quindi siamo già un 50% del 10% della forza lavoro. Forza lavoro, lavoro vivo, forza lavoro. Quindi la percentuale di sti operai che votano, di questi 50% ne voterà sì e no un 30-40%, 20-50%, non lo sappiamo, questo non abbiamo dati. Però questo ci dice quanto numericamente sull'elezione di un governo di destra sia insignificante questa roba, che però da narrazione diventa percezione e diventa generale e fa breccia dalle nostre parti, fa breccia nella nostra parte. Abbiamo purtroppo negli ultimi anni elementi di quello che noi qua tra compagni chiamiamo comunismo conservatore, votato più alla geopolitica, quelli che dicevamo prima erano più votati alla geopolitica, che credono in questo, e credono in questo non tanto sul punto di vista dell'operaio che vota, ma dicendo, ecco, voi pensate agli immigrati, pensate al gender, pensate a questo, pensate a quell'altro, che alimentano una narrazione di destra che alimenta la percezione del fatto che... Allora io, più che non è non si riverbera su un piano materiale questa narrazione che diventa percezione. Io la vedo più come la destra, la rivincita finale, tra virgolette, di questa destra che qualcuno chiama neomissina, neanche più post-fascista, neomissina perché riprende, comunque questa destra radicale che sta governando oggi in gran parte dell'Occidente, ma soprattutto la riferisco a quella italiana, Fratelli d'Italia e quant'altro, la rivincita finale sulla sinistra, la rivincita finale sugli ideali, sulle lotte di sinistra, su quello che sono stati la sinistra in Italia dal 1920, come dicevi tu, poi dal 45 fino a oggi, che è stata determinante per la politica, per la società e per la vita degli italiani in questo paese, no? Che è stata determinante, che vuole anche oggi, abbiamo anche la pretesa che lo sia determinante anche per chi non è nato italiano, ma che come noi vive in questo paese, lavora in questo paese produce ricchezza in questo paese. Quindi una sorta di rivincita mediatica, che poi è anche più mediatica, una narrazione è una percezione che più mediatica, una rivincita. È come dire, ultimamente sento spesso, no, soprattutto dagli analisti geopolitici che vanno tanto di voga, è come dire, signori italiani, la storia è finita, la sinistra è finita, non ci sarà più, ci siamo solo noi, governiamo noi, affidatevi a noi. E affidatevi a noi vuol dire quello che c'ha, quello su cui fatti i passaggi finali del suo intervento Tommaso, che è una società che va verso uno stato di guerra, non una società italiana ed europea che va nello stato di guerra. E in questa cosa, soprattutto della guerra, prima quando eravamo a cena, Tommaso ci diceva che l'ha lambito nel suo intervento, ma in tutto quello che c'era da dire, no? L'ha bypassato, ma ve lo racconto io perché è importante secondo me. Che all'inizio della prima guerra mondiale, no? La Federazione dei Metalmeccanici dell'epoca, che era dentro le fabbriche, non abbandonò gli operai all'interno delle fabbriche riconvertite in fabbriche militari dicendo Italia è un paese pacifista da sempre, il socialismo italiano è sempre stato pacifista, è stato battuto a bastonate, no, questo ce lo ricordiamo, chi studia un po' la storia dell'interventismo italiano, di come l'Italia è entrata in guerra, fu combattuto a bastonate, il pacifismo italiano fece cambiare soprattutto la parte parlamentare, ma anche la parte. Comunque in quel frangente la FIOM, che era comunque la Federazione Metalmeccanica, che era comunque pacifista, internazionalista, non abbandonò quegli operai a dire se voi producete, li mettete lì a produrre armi, non ve ne andate, non scioperate, non fate le lotte, che poi voleva dire finire o in galera oppure finire a fronte, come succede in Ucraina poi, o anche in Russia, anche in Russia chiaramente, da tutte e due le parti. Ma restò lì, cercò di porsi come argine, no? E comunque di portare comunque avanti l'ideale del non entrare in guerra contro altri proletari, perché questa era la narrazione che andava fatta all'epoca e loro la facevano all'epoca, no? E di difendere comunque i diritti dei lavoratori in quella precisa fase storica comunque in cui producevano elmetti, producevano armi e quant'altro. E fu in quel caso lì che la FIOM decuplicò gli iscritti annuali, e fu quella decuplicazione di scritte annuali che permise poi il 1919-20 il biennio rosso. Sì, di fatto. No? E noi stiamo entrando in una fase del genere. Crosetto, le dichiarazioni che fa Crosetto, la Meloni, la Carel con l'università, non sono banalità, come non è banalità la destra che ci racconta che gli operai votano a destra, perché diventa totalizzante questa roba, e gli operai, come diceva lui, erano presi, assunti come dalla società, come, no, il tutt'uno, il baluardo che, no, prendeva nel suo seno, nel suo ventre la società, tutti gli italiani, proletari, poveri italiani, e li portava un'emancipazione di questo tipo, no? Oggi stiamo tornando in una fase del genere, però ci dicono che quel ventre lì abbraccia E abbraccerà il nazionalismo, abbraccerà la guerra. La narrazione degli operai vuotano a destra potrebbe voler dire essere questo. Ecco, rispetto a questo ragionamento che ho provato a imporre, a porre, qui mi viene un aneddoto su Fontana che ve lo risparmio, magari ve lo racconto alla fine, a porre di questo lapsus, porre in poi, a porre, ve lo pongo per aprire il dibattito di questa serata, vi pongo questi ragionamenti e cosa ne pensate, perché poi ragionare su questo, sulle cause e su cosa vuole dire realmente lo slogan gli operai votano a destra, cioè, secondo me ci aiuta a districare il bando della metastasi su come noi possiamo agire per destrutturare la narrazione di costruire la coscienza, com'è da sottotitolo, che non è una questione di linguaggio, non è una questione solo di contronarrazione, ma è una questione tutta pratica rispetto anche a quello che ho provato a raccontare e che ci hanno raccontato Tommaso e Alessandro nei loro primi interventi. Posso? Io la faccio breve, poi anzi ci sono domande e cose, perché poi non è che sono il Papa, anche se la chiusura che ha fatto Alessandro mi ricorda molto la Laudato Si di Papa Francesco. Questo, no, è vero, ma ragazzi, si è messi così, cioè nel senso che no, adesso la dico. Allora, è complicato, cioè nel senso che se io avessi risposto a queste domande sarei il capo del mondo, osannato dalle folle, molto probabilmente. È tremendamente complicato. Io penso che, la dico semplice, io anzi spesso eccedo di, diciamo, cinismo, e quindi io penso che se noi guardiamo i 30 gloriosi e in particolare gli anni 70, non è purtroppo la fase storica, secondo me, che stiamo vivendo, al netto che chi vi parla non crede minimamente nella ciclicità della storia. Penso che però la storia possa quantomeno insegnare a capire cosa è successo prima e così per tentare di farci capire che cosa può succedere. Io penso che siamo in una fase paragonabile alla fine dell'Ottocento, cioè io penso che buona parte di quello che abbiamo conosciuto finora non abbia più molto senso. Il che non vuol dire che finirà domani, assolutamente, vuol dire che le strutture, le istituzioni, le organizzazioni devono avere la capacità di innovarsi e di cambiarsi. Certo, non ho una visione rosea, ma non perché sono pessimista io, perché purtroppo lo snodo, lo scenario verso cui stiamo andando, mi sembra che comunque la mettiamo, per quanto gestita o meno, verso uno scenario di forti contrapposizioni nazionali e nazionalistiche, bellicistiche, possono essere i dazi piuttosto che le guerre guerreggiate, ma io temo e penso che verso quello scenario lì noi stiamo andando, ok? Non penso che da questo se ne esca. L'unica possibilità, ma anche lì sarebbe un po' un guardare l'ombelico, sicuramente per noi europei è quantomeno un piccolo cuscinetto, un piccolo argine, diciamo, salvezza, può essere la costituzione finalmente di un'Europa politica, ma sempre un'Europa politica in un contesto in cui le destre spadroneggiano, o meglio spadroneggiano. Allora, io, diciamo così, contesto molto il fatto che gli operai votano a destra. Io penso che il mondo, purtroppo, il nostro mondo, il mondo occidentale, il mondo europeo, il mondo che noi abbiamo imparato a conoscere con pesi e contrappesi, figlio della Costituzione nata dalla Resistenza, con delle istituzioni democratiche solide, sia fortemente in crisi, a partire proprio dal fatto, e qui è un cane che si morde la coda, il problema vero, se volete, non è che gli operai votano a destra, è che la gente a votare non ci va più. Cioè che se voi parlate con le persone, cosa che sicuramente fate, più che trovare quello che si rivendica Mussolini o lo stragismo degli anni 70 o la P2 o la... No, che cazzo me ne frega di andare a votare, tanto non cambia niente, son tutti ladri. Ma penso anche che il tema della politica in sé sia il secondo step, cioè perché negli anni 50, 60, 70, fino almeno a tutti gli anni 80 la gente votava? Sì, c'erano i partiti di massa, certamente, ma i partiti di massa sono figli del fatto, e da lì purtroppo non se ne esce. Io ripeto, anch'io che vengo da, diciamo così, dal post-operaismo culturalmente, però non se ne è usciti dal fatto che i momenti, ripeto, anche dialettizzando, la nuova sinistra ha chiaramente dialettizzato con il movimento operaio, passatemi il termine, tradizionale, ma le conquiste sociali, il protagonismo sociale, il voto al 90% passavano dal fatto che nelle fabbriche, nei luoghi di appunto lavoro, lasciate perdere quali, ma in tutti i luoghi di appunto lavoro, le persone si organizzavano e diventavano protagonisti. Cioè il tema è quello. Io penso che il problema sia molto più che uno oggi si sente protagonista qui dentro rispetto a parlare col proprio collega. Adesso non fatemi fare l'antropologo da quattro soldi, però il tema è quello, cioè è la solitudine che le persone vivono. E la verità, e guardate, figuratevi anche lì, io proprio zero, nonostante sia cosa Reggio Emilia, ma zero sovietista, ma è palese che da quando quel pezzo di mondo lì, che comunque con la sua, qui parlo di Unione Sovietica e annessi connessi, con la sua deterrenza, con il suo altro modo di produrre, di organizzare la società, poi abbiamo scoperto che era una produzione, diciamo, fallimentare, lasciamo perdere, insomma, però dico, un altro modo di organizzare la società è finito. Noi da 30 anni, 40 anni conosciamo un capitalismo completamente dispiegato, che non ha più alterità. Cioè non è che c'è un altro mondo, no, a Genova dicevamo un altro mondo è possibile, ma lo intravedevamo. Prima, nei 30 gloriosi, in cui appunto, no, anni 60, 70, in cui si è vinto e conquistato alcune cose, adesso non ripeto, non fatemi fare il cinico, ma non solo c'era un altro mondo, ma c'erano anche lì testate nucleari puntate l'una contro l'altra, non so come dire, che poi fortunatamente nessuno ha schiacciato il tasto. Noi viviamo veramente un capitalismo completamente dispiegato, per cui, tornando a quello che dicevo prima, veramente siamo quasi più a scenari da fine 800, cioè in cui bisogna ricostruire, e su questo adesso fatemi fare lo spot, insomma è vero, però, cioè io penso che davvero dovremmo tornare alle ragioni per cui sono state fondate le prime camere del lavoro, le prime leghe, cioè bisogna rimettersi insieme oltre questa roba e oltre la sussunzione che ormai passa da qualsiasi cosa. Cioè la sussunzione non è solo andare 8 ore in fabbrica a avvitare un bullone, passa anche da cosa cerchi su Google, cioè passa da qualsiasi cosa. E come si decostruisce questa cosa qui io non lo so, non ne ho la minima idea, però è ovvio che tentare di rimettersi insieme, parlare dei propri problemi a partire, ripeto, dei luoghi di lavoro, perché io da storico non posso dire altro, oggettivamente questo è inattaccabile. Ripeto, nei momenti più alti della storia di questo paese, i momenti più alti della storia politica a sinistra, mettiamola così, di questo paese, sono stati non solo e non soltanto quando il Partito Comunista prendeva l'XY, il Partito Socialista, quando a partire dai luoghi di lavoro la gente si è organizzata, a partire dalle proprie condizioni materiali. La filosofia politica è importantissima, ma ritornare a parlare alla pancia, non in maniera brutta, cioè in maniera di accarezzarla la pancia, ma parlare dei problemi materiali, penso sia l'unica possibilità. Come si fa? Non lo so, sono il primo che ci prova, eh. Non è che finisco subito. Sicuramente io, diciamo così, tu l'hai nominata, no? la sinistra della geopolitica, io li chiamo tranquillamente rossobruni, esistono, ci sono, c'è una convergenza su quelle cose lì. Io personalmente, oltre a reputarmi antifascista e pacifista, mi reputo anche europeista, per esempio, europeista e internazionalista, cioè non penso che la difesa sia i piccoli orticelli. Europeista non è che vuol dire questa Unione Europea, vuol dire Unione Europea politica, Unione Europea in cui non contano i vincoli e i vari spread, ma conta il fatto che si possa, santo Dio, adesso non fatemi fare l'emma Bonino di insomma turno, ma la dico come suggestione, cioè una Europa che possa a maggioranza, non come adesso che devi mettere d'accordo tutti i 27 capi di Stato. No, è vero, però io penso che sia così, non vedo altri spazi, cioè penso che un'Europa politica sia l'unica soluzione per darci un po' di respiro, ma non è che ti risolve il mondo, eh. Il mondo, purtroppo, qui chiudo sempre questa nota di cinismo, adesso vi andate a, no scherzo, a suicidare. Sì. Penso che purtroppo lo scenario della guerra però sia uno scenario molto complesso, insomma, da aver davanti. Adesso non voglio lasciarvi con questo, ma è molto complesso quel tema lì. Subito che siccome non sono un operaio non ho mai votato a destra e non comincerò adesso, giusto? No, volevo capire se ho capito bene l'ultimo passaggio che dicevi tu. Cioè tu l'hai ripetuto varie volte in vari modi e io ho capito questo, che tutte le volte che qualcuno in Italia ha cominciato a organizzarsi, lascia perdere gli anni e le modalità, insomma, comunque quando la gente si è parlata, insomma, no, tra di nei casi particolari gli operai nelle fabbriche, insomma, comunque nei luoghi di lavoro, tutte le volte che le persone hanno cominciato a organizzarsi tra di loro per fare dei passi in avanti, questa cosa ha spaventato un po' qualcuno, perché tu parlavi prima di un'organizzazione che poi diventa o rischia di diventare potere, no? Si trasforma in una cosa che è un po' di più di una lotta di fabbrica, non è soltanto questa. Mi viene in mente che tutte le volte che in Italia è successo questo, per tornare agli anni tutti quelli che abbiamo nominato, qualcuno ha messo il bastone tra le ruote, insomma, no? Cioè io vorrei ricordare che negli anni 80 in Italia ci sono stati 10.000 morti ammazzati. Provo a ripetere, negli anni 80 in Italia ci sono stati 10.000 morti ammazzati, non sono cazzi nostri, è tutta gente di là che non, se si ammazzano tra di loro va bene comunque, però questa cosa dovrebbe farci riflettere, perché ci sono elementi che non fanno parte della storia della classe operaia, però qualche cosa dicono. Intendi mafia? Intendo anche quello, okay. Certo. Una roba da poco, 10.000 morti ammazzati, visto che si parlava degli anni 80, di quello che è successo. Cioè, voglio dire, questa cosa ci riguarda, ci interessa, dice qualcosa a questo passaggio a cui tu fai riferimento spesso. Cioè tu dici, tutte le volte che abbiamo cominciato a organizzarci e che abbiamo davvero provato, e questa cosa ha spaventato qualcuno, e vabbè, c'è stata una reazione non proprio simpatica, no? Ho capito bene, era questo che volevi dire? Sì, cioè oggettivamente sì, cioè, nel senso, adesso non è, diciamo, la mafia, io non sono un esperto di mafia, ma assolutamente sì, nel senso che questa cosa poi fa molto parte del mondo di cui parlavo prima, cioè il mondo organizzato per blocchi. Noi fino all'89 eravamo in un blocco, che era il blocco atlantico, in cui c'erano gli interessi della NATO, c'erano gli interessi degli Stati Uniti, la mafia è storicamente stata una sin dai tempi dello sbarco alleato nel 1944 è stata un'interlocutrice ha garantito e poi conosciamo bene le trame, piano piano verranno fuori tutte. Io mi limito a Brescia e insomma a Bologna, le due bombe 1980 e anche il 2 agosto 70, 74 e Brescia e 80, 2 agosto 80. È comprovato ormai dalle insomma sentenze che il tritolo è tritolo fisicamente uscito dalle caserme NATO di Vicenza ed è stato messo nel caso di Brescia da INAR e nel caso di Bologna idem, con appoggi logistici della criminalità organizzata e dei servizi segreti deviati. Ma possiamo più o meno, penso che il 99,9% di quello che al bar tra noi ci diciamo che è andata così, negli anni piano piano verrà fuori che è andata così, ma lo sappiamo, ecco, insomma è già venuta fuori, nel senso che penso sia nel senso comune, però sì, certo, è vero, questo è un paese, sicuramente è stato per tanto tempo un paese a due velocità, le fabbriche, il sistema di diciamo lavoro fordista, paradossalmente in fabbrica quelle due velocità lo hanno ampiamente ridotto, non solo come modalità produttiva ma anche per il fatto che, questo è giusto dirlo, il 69 operaio e gli anni 70 operai non ci sarebbero stati senza un grande numero di operai giovani del sud Italia che sono emigrati al nord e sono diventati loro i protagonisti assoluti. Io penso a, adesso non ho i numeri precisi, ma considerate che nel momento di massima il cosiddetto consiglione Fiat erano 1000 delegati, ma più della metà sicuramente erano immigrati del sud, cresciuti e soggettivati. C'è un discorso bellissimo che uso per la formazione che faccio per la FIOM, si chiama Giovanni Falcone, tant'è che qualche operaio mi chiede ma se era il giudice, e dico no, è semplicemente omonimo. Quando dopo la marcia dei 40.000 fanno questa assemblea al cinema Smeraldo, che era un grande cinema appunto Torino, e lui prende la parola e dice: io non rinnego nulla, sono venuto su dal sud Italia con una quasi insomma analfabeta quasi, io qui ho imparato che c'era gente simile a me, ho fatto lotte, sono diventato delegato, ormai parlo con una parlantina che è, io non rinnego un cazzo, so che il padrone mi butterà fuori, che abbiamo perso, ma non rinnego niente di quello che è stato, non solo la crescita collettiva ma anche la mia crescita personale come persona. Questa lo uso come esempio, ma sono migliaia, ma anche in territori come questi, per quanto non è un'immigrazione già da anni 50-60, qui è arrivata un po' dopo, ma insomma certo, quello è un pezzo importante. Vorrei fare un intervento anch'io, se è concesso. Prima lui, poi sì, dopo te lo concediamo. Grazie. Prego. No, volevo dire, è chiaro che il potere è una cosa losca, il potere è losco. Quando Tommaso diceva la classe operaia si pone il problema del potere, si pone proprio questo problema, del fatto che il potere è losco. Che diventa potere, si pone il problema di affrontare il potere e lo fa cambiando completamente prospettiva, cambiando contesto. Cioè la classe operaia non affronta il potere, le lotte, diciamo così, delle classi subalterne non affrontano il potere, non sono un potere alternativo, ok? Sono un'alternativa al potere, perché sono sempre state quelle che hanno spostato hanno trasformato il contesto all'interno del quale si ragiona. È un po' il discorso che faceva anche Tego prima, cioè quando noi oggi ragioniamo della situazione politica, ragioniamo di politica, facciamo dei discorsi di geopolitica ponendo sempre a centro, no? Gli stati, i grandi imperi, le persone, i capi di Stato, eccetera, eccetera. Quello è un contesto ed è un modo di ragionare in quel contesto lì. La lotta di classe pone un altro contesto, che è il contesto invece dell'emancipazione, della libertà collettiva, della libertà, insomma, è un altro contesto che parla della gente, non parla dei potenti, dei capi di Stato e degli stati. Fa un altro, come diceva anche Tommaso, nasce come internazionalista la lotta di classe. La prima internazionale è la nascita del partito operaio, chiamiamo così, è la prima internazionale, cioè un'internazionale dei lavoratori. Detto questo, è chiaro che oggi non possiamo immaginare la classe operaia degli anni 50, 60, dei 30 gloriosi, non esiste più. Ma non è che non esiste più perché, è che oggi, io credo, se appunto un calabrese che andava a Torino si emancipava, ok? C'è il lavoro, ma anche un veneto che andava a Milano, nel senso che i terroni che andavano in città. Scusa, oggi si emancipa il torinese che torna in Calabria ed apre l'agriturismo. Esatto. Voglio dire, se c'era se il lavoro di fabbrica era un momento di emancipazione, perché si partiva comunque da una condizione di povertà, una povertà assoluta, era già difficile mangiare, ok? Oggi noi andiamo in macchina, c'è un cambiamento, c'è un'emancipazione da questo punto di vista enorme. Ora, quando Marx parla di lavoro, di classe operaia, di proletariato, eccetera, e di capitalismo come appunto come un modo di produzione che sviluppa le forze produttive, il concetto di lavoro che è sempre di lavoro utile, ok? Cioè, è chiaro che il capitalismo sfrutta il lavoro, ma il lavoro in fondo è qualcosa di utile, produce delle cose utili. Ora, chiediamoci: il capitalismo, l'industrialismo produce qualcosa di utile? Ha prodotto qualcosa di utile, no? Perché ha prodotto i frigoriferi, le lavatrici, ha prodotto gli appartamenti. Quando appunto si veniva da un paese di campagna e si viveva magari in un casolare senza riscaldamento, dopo 30 anni di lotta finalmente hai un appartamento con il teleriscaldamento, hai prodotto qualcosa di utile. Bene, adesso che abbiamo 30.000 appartamenti vuoti, il capitalismo cosa produce di utile? Adesso che abbiamo due macchine a testa, il capitalismo cosa produce di utile? Ok? Il lavoro dove trova la sua utilità? Dove trova il suo essere progressivo e non regressivo? Quando si parla appunto di capitalismo estrattivista è perché il capitalismo non produce nulla di utile, ok? È chiaro che questo è vero per noi Occidente, per l'Europa, in Italia, non è vero probabilmente in tutta la Cina, non è vero in Africa, ok? C'è un relativismo, no? In queste cose qui, però guardiamoci noi, nel senso, qual è il qual è il punto appunto dei bisogni materiali che noi dobbiamo guardare per vedere appunto una capacità poi di emancipazione dei lavoratori? Quando andiamo a parlare appunto in fabbrica, no? Usiamo questo luogo comune, la fabbrica, vai a parlare con l'operaio che lavora e gli parli della sua materialità, delle condizioni materiali della sua esistenza. Oggi puoi andare a parlare di un miglioramento delle sue condizioni materiali attraverso il lavoro? No, ma neanche dal punto di vista salariale. Io lavoro in officina metalmeccanica, neanche dal punto di vista salariale, ma anche se i metalmeccanici si salvano ancora in qualche misura, però ti dà di più il padrone se fai il servo, no? Se tu dividi, ecco, se tu dividi, se tu vuoi dire, dici io non sciopero più, il padrone ti dà di più, ok, di un contratto nazionale, chiaro, te lo dà una volta e poi basta, ma quello bisogna spiegarlo. E cioè, per cui secondo me, io penso che se noi andiamo a cercare, perché io mi propongo questa cosa qua, se io vado a cercare qual è il lavoro oggi utile, io vedo un lavoro utile, utile quindi in senso progressivo, ok, in senso emancipatorio, lavoro utile in tutte quelle varie attività, in tutti quei servizi che servono a produrre e a dare risposte ai bisogni sociali, e che oggi sono i lavori meno pagati, i lavori meno considerati. Ora, non dico, cioè, gli operai hanno secondo me un ruolo importantissimo, che è quello di alimentare il capitalismo, e questo loro se lo devono assumere come compito, cioè smettere di alimentare il capitalismo, smettere di dare, di farsi sfruttare dai capitalisti, ok? Smettere. Per cui c'è come dire, gli operai hanno un ruolo importante, che è quello di, perché io da metalmeccanico questo la sento molto, andiamo che finiamo che produciamo armi, ok? Cioè se va avanti così altri 2-3 anni, noi ma forse anche prima, noi cominciamo a produrre cannoni e carri armati. No, vieni qua che sennò non si riesce. Come è stato seduto là? Allora vieni, ti do il microfono. Non ti voglio scappare. Non so se c'è il dunque, intanto c'è molto carne sul fuoco e cercare di ragionare un po' su tutti questi argomenti sarà un po' difficile. Vado a ruota libera e così, non so se sarà un gran filologico, qualche flash salterà fuori. E intanto sì, sono d'accordo con quello che ha detto lui, Alessandro, cioè la classe lavoratrice, non uso il termine operaio, allargo un po' ai lavoratori in generale, ecco, forse negli anni 60, dopo la fine di una vita di lavoro, un padre di famiglia riusciva a lasciare alla prole una casa, un appartamento, adesso non più perché le condizioni sono peggiorate, ecco. E quindi concordo con voi nell'analisi che la situazione dei lavoratori è veramente molto grave, perché gli stipendi calano, lo dicono tutti, da 20 anni si prende sempre meno. Ecco, però il titolo di questo incontro era gli operai votano a destra, cioè io più che il voto parlerei un po' perché si rivolgono a cultura di destra, lascio fare il discorso di votazione perché poi saltare fuori molte divergenze, ecco. Io porto le mie testimonianze, l'unica persona mia amica che conosco una vita che ha sempre fatto l'operaio, un po' di tempo non vedevo, e mi ha detto che era diventato razzista, che non sopportava i marocchini, che non sopportava i meridionali, e quindi questo mi ha sconvolto, perché viene da famiglia di comunisti, di partigiani, e so cosa è successo con questa persona. E quindi c'è, poi ragionando un po' in casa, chi è che fa questa sterzata, va verso una cultura di destra, è gente che ovviamente c'è anche molta ignoranza, se uno, perché dovremmo essere tutti sulla stessa barca, abbiamo tutti gli stessi obiettivi, no? Per migliorare la condizione di lavoro. Poi nel tuo intervento, te non mi ricordo, Gianluca, ecco, lì non mi trovo d'accordo quando insomma hai descritto le lotte, insomma, delle categorie più marginalizzate, tipo, e mi vengono in mente le più grandi manifestazioni che ho visto a Reggio Emilia. Quali sono state? Sono state quelle del movimento Non Una di Meno, delle transfemministe, oppure i Pride, oppure la Palestina. Io non ho mai visto piazze così piene a Reggio come per quei argomenti lì. Manifestazioni per aumentare il salario minimo, non ho visto nessuna regge di manifestazioni di quel genere che riempiono le piazze, capito? Quindi poi c'è, cioè, anche nello sfruttamento, diciamo, delle donne oppure delle persone, anche le persone trans sono sfruttate, cioè dovremmo coordinare tutto. Non dobbiamo dire che quelle sono lotte che hanno un valore inferiore ad altre, appartengono tutte alla nostra cultura di emancipazione, di maggior equità sociale. Ecco, quindi poi come mai votano oppure hanno un atteggiamento di destra i lavoratori? Dobbiamo essere coscienti anche che i media e le informazioni sono in mano alla Confindustria, al padronato, cioè, no? Un Masco, quell'altro, il padrone di Facebook, sono, sto a citare tutti, e ormai sono tutti di sotto, si legge meno. Però bisogna anche essere fieri del fatto che abbiamo riempito le piazze contro questo orribile ingiustizia che sta avvenendo in Cisgiordania e a Gaza. Quindi la gente si solleva, non è che sta ferma. Ci sono dei momenti dove il popolo reagisce, va bene, e non quei temi classici dell'operaismo che avete descritto nella storia del movimento operaio. Ormai secondo me sarà difficile, non è possibile, però ci sono dei segnali di vigore, e dobbiamo essere insomma contenti e far leva su quello. Su quello, che per come mai si muove questo. Ecco, poi non so, se mi viene in mente qualcos'altro. Ti rispondo un secondo, così poi dopo andiamo anche verso la chiusura, che sono le 11:07 minuti. Spero di non essere stato frainteso quando parlavo della questione delle minoranze, di come tu hai parlato, nel senso, quelle manifestazioni più grandi che abbiamo avuto sono state quelle di una di meno e tutto il resto. Io spero di non essere stato frainteso, ma è la destra che utilizza strumentalmente il fatto di dire che la sinistra si occupa solo di quei movimenti lì, di quelle persone lì, diritti civili, razzializzate, genderizzate, quant'altro, per sminuire, no? quelle battaglie. Noi in quelle battaglie ci siamo sempre stati dentro, e la questione di quelle battaglie, diciamolo chiaramente, lo diceva Marx, ma lo diceva soprattutto Lenin, tutte le lotte sono degne di essere combattute, e i comunisti devono stare dentro tutte queste lotte, le devono combattere tutte. Quello che conta è il carattere sociale di queste lotte. Per cosa le facciamo? Se noi facciamo una lotta, se una transfemminista fa una lotta a suo uso e consumo per la sua condizione personale, ma non per la liberazione dell'intera categoria dello sfruttamento capitalistico, che è uno sfruttamento generale della propria condizione di vita, non individuale, ma di un'intera comunità, no? Quindi marginalizzate. Quindi è il carattere sociale che noi diamo a queste lotte, e noi diamo un carattere sociale generale di emancipazione generale dal sistema capitalista, perché è il patriarcato che ha generalizzato l'oppressione femminile di genere. Il patriarcato è quello che dà la luce, è stato il primordio, no? della questione della presa del potere, della nascita del potere, che poi solo in ultima istanza ha generato il capitalismo, ma partiamo 17.000 anni fa, come ci racconta Abdullah Öcalan, no? O come ci dicono anche Marx e Engels, poi partendo un po' dopo rispetto all'analisi. Quindi noi stiamo dentro tutte quelle lotte, cerchiamo di generalizzare quelle lotte, perché sono tutte degne di essere combattuta, ma la generalizzazione è emancipatrice e anticapitalista, la distruzione del sistema sociale capitalistico che, no, produce la marginalizzazione di settori sociali che invece hanno tutto il diritto di vivere la loro vita come desiderano, no? Sia a livello individuale e poi a livello sociale, essendo esseri umani che vanno a lavorare, hanno diritto a vivere una vita lavorativa degna, con salario degno, e una possibilità di crescere la famiglia e la vita, la casa e tutto, soddisfare i bisogni primari, come si diceva prima. Quindi spero di non essere stato frainteso su questa roba qua. Voglio chiudere solo su un'ultima suggestione che vi lancio, e lancio anche, voi. Come si diceva prima, noi non abbiamo sminuito, no, la consistenza, l'importanza della classe operaia. Poi chiaramente, come dicevi tu, la classe lavoratrice è molto più ampia. Come costruire un'unità di classe, come la chiusura di Alessandro, è il grande tema, come abbiamo detto prima. Ma rispetto a quanto dicevamo sugli operai in sé, che quando gli operai, i momenti più alti di questo paese, sono stati quando gli operai si sono organizzati e si sono fatti, no, ventre del resto della società o delle istanze del momento, noi l'abbiamo appena vissuto, l'hai nominato anche tu. La mobilitazione, gli scioperi generali di fine settembre, primo ottobre, non nascono dalla società, la potenza di quegli scioperi non è nata dalla società, è nata da un gruppo di operai portuali che hanno deciso di dire basta, e hanno deciso di dire basta in modo abbastanza chiaro e netto, e hanno invitato la società italiana a insorgere, a scendere nelle strade per dire basta, legato a quella follia, grande follia, no, di cui ci dobbiamo dotare, della sumofruttiglia che è andata per sfondare, per rompere l'assedio israeliano su Gaza dal mare e portare aiuti. Lì è stata la forza operaia che ha, cioè non è stata la forza operaia, ma se noi la vogliamo leggere rispetto a quanto abbiamo anche detto, comunque ci dice che ancora oggi comunque l'operaio ha questa possibilità, nonostante sia marginale rispetto, no, al numero della forza, numericamente a livello della forza lavoro, ma ancora una forza trasportatrice o non ha ancora una forza trasportatrice. In quel caso ce l'ha avuta. È una suggestione, un pensiero che un po' che mi girava, non cercavo di capire, ma che stasera mi si è un po' chiarificato, e chiedo ai nostri due relatori di dire due cose su sta roba, no, che io ho detto grossolanamente e confusamente, perché è ancora nella mia testa confusa e grossolana, insomma. Allora, vabbè, adesso io sul fatto che i portuali, allora, chiaramente c'era un dato che però ci interroga molto, c'era un dato secondo me di insopportabilità ormai generalizzato, cioè io almeno l'ho vissuto da Roma, io ho fatto i cortei di Roma, si sono organizzate le scuole quei giorni lì per essere in piazza, ecco, cioè non è che lo sciopero dei USB o della CGL o dei portuali, cioè c'era un clima di insopportabilità rispetto alle immagini che da mesi si vedevano sulle TV, che non se ne poteva più. Dall'altro lato, per chi fa organizzazione ed auto-organizzazione sociale, la butto lì adesso, se no travalichiamo su altro. Io per esempio sono di quelli che ha detto, quando è nato il movimento, non lo so, io penso che per certi versi è una cosa nuova, io l'ho chiamata la francesizzazione un po', cioè sono delle fiammate su cui noi dovremmo starci, abituarci, non voglio usare il termine cavalcare che è una cosa orribile, ma mettersi al servizio, si potranno dare su tante cose. Ciò non toglie che io vedo difficilmente una sedimentazione organizzata. Ecco, vedo delle fiammate che possono partire perché l'indignazione su certi temi, su certe cose, oggettivamente c'è, cioè in una società poi ipercomunicativa come la nostra, in cui ti trovavi, no, bambini sventrati e palazzi, insomma, ecco, non è inutile che raccontiamo cose di questo tipo. Però è anche vero che l'anomalia italiana, la cosiddetta anomalia italiana, cioè i lunghi anni 70, ampiamente studiati, e penso tutto il pensiero appunto post-operaista, tanto studiato negli anni 70 italiani, invece hanno sedimentato. Posti come questo nascono proprio da quell'esperienza lì, no? La nuova sinistra, i circoli del proletariato giovanile, questa cosa qua penso che ci interroghi tutti, ma lasciamo perdere. Allora, sulla marginalità degli operai, adesso te la dico così, ma guardate che gli operai non erano maggioranza neanche nel 1920, neanche nel 1970, nel 1920 l'Italia era un paese assolutamente contadino, cioè gli operai erano quattro gatti, più che altro tra Torino, Genova, Milano. Sì, a Reggio c'erano per esempio già le officine reggiane, ma se prendiamo il rapporto tra operai che nel 1920 lavoravano alle officine reggiane e il numero dei contadini, mezzadri, braccianti che riempivano questa provincia, andiamo a 1 a 10, cioè uguale negli anni 70, in cui al sud ancora al sud, ma non solo, era un paese ancora sostanzialmente agricolo, non pensate che l'idea nostra della ogni capannone è una fabbrichetta, è più una roba dagli anni 80 in poi, da quando il capitale ha capito che con la parcellizzazione, con la frammentazione governava meglio, cioè che le grandi fabbriche, i grandi conglomerati operai erano meno governabili rispetto che avere la fabbrichetta con 20 dipendenti, altri 30 lì, subfornitori di quell'altro, quelli che fanno il magazzino esternalizzato. Cioè questa frammentazione sul territorio se la sono inventata, anche perché era più, diciamo, funzionale, non è che poi c'è un pezzo del movimento operaio tra virgolette tradizionale che ci è arrivato dopo, un pezzo della diciamo sinistra o della nuova sinistra che ci è arrivato un pochino prima, sull'operaio sociale, l'operaio massa, ok? E io ripeto, non ho come posso dire soluzione, adesso non voglio tornare alle cose di prima, però io penso che o c'è la capacità di ritornare alle origini di quella necessità di solidarietà qui, che vuol dire anche per chi è insider, per chi sta nelle grandi fabbriche, di porsi il tema delle filiere, cioè del fatto che se io faccio un contratto aziendale non me ne posso fottere dei lavoratori in appalto, o dei lavoratori delle pulizie e della mensa, o dei lavoratori tramite agenzia interinale, cioè devo cercare di ricostruirla. È molto più complicato, perché non è Mirafiori degli anni 60, in cui hai 60.000 dipendenti assunti, tutti uguali, è più complicato, però o si riparte da lì, e soprattutto, e su questo io personalmente chiudo, rispetto al modello sindacale che ho in testa io, e al sindacato che, vuol dire, conosco io, e penso in primis alla FIOM in questo caso. Un sindacato o è democratico o non è, cioè la ricostruzione del senso dell'agire sindacale, quindi di rimettere al centro la classe operaia, e quindi di prevenire il fatto che si senta atomizzato, solo, isolato, e quindi potenzialmente che possa votare a destra, è farli sentire protagonisti, ed è una cosa molto semplice. Sui contratti, sulle cose che li riguardano, i lavoratori devono votare, sono loro i titolari dei diritti, dei contratti e di tutto quello che li riguarda, non c'è qualcuno che decide sulla loro testa, perché quella logica lì di espropriarli della decisione è esattamente la logica che li porterà a cercare la Giorgia Meloni di turno, così come 80 anni fa hanno cercato un signore pelato che diceva metto tutto a posto io, basta con queste robe, occupate le fabbriche, a rompere i coglioni, il paese deve andare via via, impero, futuro bello per tutti, perché così è nato il fascismo, ok? Bastonando e uccidendo i cosiddetti rompicoglioni e prospettando un futuro che voglio dire, come sono le cazze finite, tragedia, ok? Perché poi se c'è una roba che non siamo buoni a fare noi è la guerra sostanzialmente, ecco. Però cioè, o rimettiamo al centro, però ripeto, io se non voglio tornare a questi, ma cioè, bisogna far uscire le persone dall'isolamento e dall'atomizzazione, perché quello è il primo embrione per pensare i fatti loro, pensare che lavorativamente me la risolvo io dal punto di vista individuale, sì una volta magari mi va male, mi costringe a fare lo straordinario, però poi dopo vai, mi vuole bene, qualcosa contratto io, cioè o hai la capacità di rimetterti insieme a partire, ripeto, dalla materialità, o se no è un po' fosca, ecco, mettiamola così, quantomeno è un po' fosca. Io dico solo un paio di cose, perché quello che ha detto Tego all'inizio è, nel senso, noi stiamo facendo questo ciclo di conferenze, dibattito, presentazioni, libri, eccetera, eccetera, in questo primo momento, diciamo così, con la presentazione del libro Atlante della memoria operaia, questo dibattito di stasera, come dire, volevamo riprendere un po' il tema, no? Partendo appunto un po' dalla storia, diciamo così, delle lotte operaie del passato, per andare avanti, per vedere una prospettiva, per guardare avanti. Ed è chiaro che il tema che diceva anche adesso Tommaso è quale modello di sindacato noi ci pensiamo. Cioè, c'è anche questo tema. Cioè, nel senso, dobbiamo ritornare ad una centralità della classe operaia, ma non è più la classe operaia. Cioè, quando parliamo, se Tommaso dice classe operaia, lo sta dicendo in modo metaforico, perché oggi la classe operaia ovviamente non è più i lavoratori metalmeccanici o... Non solo. Esatto, non sono solo loro. Non solo, ovviamente. Esatto, cioè, e quindi il discorso della loro unità, appunto, non è l'unità che tu trovi attraverso la contrattazione. O il protagonismo non è il protagonismo che trovi nella lotta sulle condizioni materiali del lavoro, anche perché ad esempio il tema della sicurezza è un tema enorme, se si lo affrontasse in modo minimamente sincero già cambierebbe tantissimo il nostro modo di produzione e i nostri rapporti di forza. Però la questione è che oggi non è soltanto un discorso di frammentazione di quello che c'era prima, okay? Non è soltanto una questione di sconfitta di un movimento operaio che c'era prima, è una questione, secondo me, anche di cambiamenti che ci sono stati nel frattempo, cioè di uno sviluppo, io la vedo, la dico così, di uno sviluppo delle forze produttive. Oggi se noi guardiamo le cose non dal punto di vista del capitalismo, ma dal nostro punto, cerchiamo di costruire un nostro punto di vista, dobbiamo vedere che in tutti questi anni, che sono da un certo punto di vista sono stati anni di vittoria del capitalismo e di sconfitta del movimento operaio, sono però anche stati anni, sono anche anni in cui c'è stato uno sviluppo delle forze produttive, cioè in cui c'è stato un cambiamento del modo di produzione, in cui le cose, il lavoro utile, il lavoro socialmente utile è cambiato, in cui la socializzazione dei lavoratori non è più una, cioè non si parte più da una condizione in cui si era parte di un nucleo familiare, la famiglia era centrale. Qua il discorso del maschilismo e del patriarcato c'entra tantissimo, ma siamo in una condizione completamente diversa in cui viviamo in una realtà sociale che si è emancipata da quei rapporti lì, ok? Non abbiamo più la famiglia patriarcale, eccetera, eccetera, no? Con una tradizione contadina, con zii, nonni, nipoti, eccetera. Siamo soli, individui isolati, però completamente socializzati, che viviamo direttamente, immediatamente, la nostra vita anche intima dentro a delle relazioni sociali ampie. Ora, queste cose, queste trasformazioni sono elementi, come dire, che definiscono, come ripeto la citazione di Marx, cambiano l'individuo, e l'individuo entra nei rapporti di produzione immediata già cambiato, già trasformato. Noi siamo altri soggetti, altri individui, entriamo nel rapporto con i capitali in un altro modo. Ci sono tantissime altre questioni che qui non si affrontano perché, come dire, siamo nel nostro ambito, no? Che è quello di capire cos'è stato il movimento operaio e cos'è stata la sconfitta del movimento operaio. Siamo, però, cioè, voglio dire, guardando al nostro oggi e al nostro domani, dobbiamo dire che siamo in una condizione completamente diversa. I problemi che oggi noi abbiamo di fronte sono la crisi climatica, i virus che si diffondono, cioè non sono problemi legati alla miseria, al fatto di dover mangiare, di avere bisogno di una casa, cioè, capito che i problemi, cioè, quando Keynes negli anni del primo dopoguerra diceva: avete bisogno di una casa, costruitela, non ci sono i soldi, fregatevene. Se avete bisogno di una casa, ve la costruite. Ma è quello che è successo. Fate le buche. Ma è quello che è successo. Cioè, il quartiere di via Montecisa è stato costruito così. Andavano a prendere mattoni delle case distrutte dai bombardamenti e costruivano le case abusivamente, se ne fottevano. Non avevano permesso. Non c'entra. C'è bisogno di case, si costruiscono case. Oggi non c'è bisogno di case. Oggi c'è bisogno di una città trasformata, ok? Abbiamo bisogno di un'altra. Noi oggi non diciamo abitare gli appartamenti, oggi diciamo abitare le città. Cioè, no, dobbiamo, ok, l'unità si costruisce, non, ecco, oh, puntini, ognuno traga le sue conclusioni, ma dopo che ha tratto le conclusioni ne discuta con gli altri, questione politica. Sono le 11:30, andiamo in conclusione. Vi dico subito che se voleste riascoltare il dibattito di stasera, le presentazioni dei libri, se non siete riusciti a venire, quella del 22 o quella che ci sarà sabato in Gargotta, in cui vi invito a venire, le potete riascoltare sul sito di Linea Reggiana nei podcast, oppure sul canale YouTube di Linea Reggiana, in cui trovate tutte le presentazioni e tutto il resto. Ringrazio Alessandro, nostro compagno operaio di Casabetto. Grazie Tommaso per essere venuto stasera qua e per quanto ci ha raccontato. Ringrazio voi per essere stati qua stasera e speriamo di rivederci alle prossime. Vi dico già subito che nella primavera andremo ad affrontare qual è il rapporto tra Giorgia Meloni, la destra e il governo rispetto al lavoro, quindi come si pone il governo rispetto al lavoro e ai lavoratori, e cercheremo di indagare anche quale impatto può avere l'intelligenza artificiale e nuove tecnologie sul mondo del lavoro del futuro. Queste saranno cose della primavera. Canale YouTube è sempre di Linea Reggiana come sito, poi dalla sezione podcast puoi arrivare al canale YouTube. Grazie ancora e buonanotte a tutti.